Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, puntata quasi monografica, non del tutto, nel senso che ci sono anche notizie che arrivano dall'Europa, dalla Banca d'Italia, da Moody's, ma anche dal rapporto appunto della Banca d'Italia sui consumi, così come ci sono notizie che riguardano anche la pressione fiscale. Già ve l'hanno ricordato i nostri GR, in realtà è emerso oggi che il dato riferito al 2011, lavoreremo fino a metà luglio praticamente per pagare le tasse. Ora, questo dato rischia di essere una media di trilussa, perché chi evade lavora magari fino a gennaio e chi non evade lavora anche oltre luglio, però questo è il dato diffuso dall'Unione Europea, dall'Osservatorio dell'Unione Europea. Fino al 10 luglio, l'anno scorso era fino al 3 luglio, quindi una settimana in più, ed è elaborato dalla Fondazione per le Riforme Europee e dall'Istituto Economico Molinari in base ai dati dell'Ernst Young resi noti oggi. Praticamente abbiamo scalato anche un posto in questa poco invidiabile classifica, ossia quella dove bisogna lavorare più a lungo prima di finire di pagare tutte le tasse. Ci batte solo la Svezia. Faccio notare che i servizi erogati dallo Stato svedese per le tasse pagate sono leggermente diverse. Ancora, per quello che riguarda la classifica, al secondo posto c'è la Francia, 26 luglio, Austria 23, Ungheria 16, Germania 13. Luglio, peggiore il clima delle imprese, dice invece la Banca d'Italia, crescono le sofferenze, anche di questo parleremo. Però ovviamente, oltre ai dati sulla pressione fiscale e gli atteggiamenti europei, ovviamente oggi il grosso della puntata riguarderà l'intervento di Enrico Letta, del neo Presidente del Consiglio, che tra l'altro ha toccato prevalentemente, non solo, perché ha parlato anche delle riforme di carattere più politico, ha toccato prevalentemente temi di carattere economico. La vera domanda però, se posso permettermi in questo momento, è: il PDL lo ha fatto sapere in tutti i modi, vuole l'eliminazione dell'IMU. C'è un passaggio su questo anche del neo Presidente del Consiglio. Resta sullo sfondo l'ipotesi, un'ipotesi forte, non un'ipotesi marginale, di una manovra correttiva, 10-11 miliardi. Ci sono delle scadenze che arrivano a luglio, e mi riferisco non solo all'IMU ma anche all'IVA. Ebbene, da dove si troveranno questi soldi, se servirà una manovra correttiva? E pongo una domanda sullo sfondo e poi partiamo con le notizie in breve. Visto quello che hanno ottenuto Spagna e soprattutto Francia, ossia un prolungamento dei termini per rientrare sugli obiettivi di deficit che si erano persi in alcuni casi, perché l'Italia non chiede la stessa cosa? Cioè, tutto questo problema potrebbe essere risolto se anche noi chiedessimo un anno in più rispetto a quello concordato prima dal ministro Tremonti e poi dal primo ministro Monti, e cioè il pareggio di bilancio nel 2013. Potremmo arrivarci vicini, 0,8-1%, insomma un percorso virtuoso, ma avere anche noi un anno, forse anche due come ha avuto la Francia, per ottenere gli obiettivi di deficit che abbiamo concordato con l'Europa. Non sarebbe un dramma, una volta che tu sei virtuoso in questo senso, anche se ritardi di un anno con una recessione del genere, con la necessità di far ripartire l'economia. Io non mi strapperei le vesti, ecco, mettiamola così. Non è che tu ti metti a far ripartire il deficit, lo continui a ridurre, ma invece che arrivare al pareggio l'anno prossimo ci arrivi un anno dopo. Questo permetterebbe di far respirare il paese, perché manca solo un'altra mezza manovra finanziaria per far ripartire i consumi, che sono, come dice la Banca d'Italia, appunto in netta depressione. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi come sempre la pagina di Facebook di Focus Economia su Facebook. Le altre notizie in breve. Che ho fatto un ragionamento, si è rivolto a me, da sud. No, perché? No, mi sembra invece che avere un po' di possibilità per il paese di respirare significhi far respirare anche le nostre imprese, i consumatori, i lavoratori, trovare risorse per la casa integrazione in deroga e eventualmente anche eliminare o ridurre l'IMU, no? Perché tutto questo poi va a impattare sui conti pubblici. Il problema è che se tu levi l'IMU o fai altre misure e poi comunque inasprisci la pressione fiscale o vai a fare tagli lineari alla spesa, che abbiamo visto non servono a niente, nel senso che o tu tagli in maniera mirata, o il taglio lineare penalizza molto chi è virtuoso e in qualche modo è un regalo per chi è vizioso, per chi è, diciamo, inefficiente. Beh, piuttosto che tagli lineari che in questi anni non hanno prodotto nulla, o meglio molto poco, forse è meglio avere una prospettiva di un anno in più e concentrare le risorse su alcuni punti, l'IMU, il cuneo fiscale, quindi le tasse in busta paga, e altri pochi ma significativi punti. Come va la borsa? Molto bene Milano rispetto alle altre borse europee, più 2% Milano, più 0,60 Francoforte, più 1,40 Parigi, più 0,40 Londra, euro su dollaro a quota 1,31, tra i titoli negativi Popolare di Milano meno 3,90, Fiat meno 1,5, ne parleremo. Molto bene Monte dei Paschi più 6,60, bene le banche in generale, UbiBanca più 3,30, Generali più 3%, Banco Popolare più 3, Popolare Emilia Romagna più 3 anch'essa, Intesa San Paolo più 2,60 come Unicredit, devo dire Mediobanca più 1,60. Molto bene anche A2A più 5,20, Mediaset più 4,5, Pirelli più 4,10, Telecom più 3,80 e Prismian, l'ex Pirelli Cavi, più 3% come Enel. Partiamo come sempre dall'estero, dove il Parlamento greco ha approvato il taglio di 15.000 posti di lavoro nel settore pubblico entro il 2014, di cui 4.000 entro quest'anno. La misura fa parte del pacchetto di austerità richiesto dalla Troica, quindi Banca Centrale Europea, Fondo Monetario e Unione Europea, per dare il via libera al pagamento dell'ultima tranche di aiuti pari a 8,8 miliardi di euro. Non ha nulla a che vedere con quella che mette invece in mobilità altri 25.000 dipendenti. Migliaia di persone hanno protestato in Grecia davanti al Parlamento. I primi ad essere licenziati saranno i lavoratori che hanno subito provvedimenti disciplinari o che hanno fatto dichiarazioni false al momento dell'assunzione. Risponde, seppur diciamo in maniera indiretta, la Banca Centrale Europea all'attacco della Bundesbank, della Banca Centrale Tedesca, che aveva detto in sostanza che anche il piano di salvataggio dei paesi in difficoltà, il piano antispread, il piano MT, erano in quel modo, la BCE era uscita dal solco del suo mandato. I faccio notare alla Bundesbank che poi la storia cambia, il mandato della BCE fu fatto quando l'economia cresceva e l'unico paura soprattutto tedesca era l'inflazione. Qui siamo con l'economia ferma, in recessione, l'inflazione non esiste perché la gente non consuma, no? Anche il Kaiser non c'è più. Comunque, la Banca Centrale Europea agisce nell'ambito del suo mandato, ha detto la BCE, e adempie a questo. L'irreversibilità dell'euro non verrà tutelata ai danni della stabilità dei prezzi, ha continuato. E che l'inflazione non sia un problema, non lo diciamo noi, lo dice per esempio in Germania l'Istat tedesco. L'inflazione è scesa ai minimi da agosto 2010, su base mensile meno 0,5, all'1,1% la crescita dei prezzi in Germania rispetto a un anno fa, quindi ampiamente sotto la soglia del 3%, considerata la soglia, diciamo, importante, la soglia di allarme dalla BCE. Molto bene l'asta oggi dei BTP italiani a 5 e 10 anni, il Tesoro ha collocato tutti i 6 miliardi di BTP a 5 e 10 anni con tassi ai minimi dall'ottobre del 2010, quindi di nuovo un periodo precedente l'attacco che fu maggio, giugno, luglio 2011 all'euro e quindi anche all'Italia e alla Spagna. Il rendimento, dicevo, del medio del BTP a 10 anni è sceso al 3,94% contro il 4,66% di marzo, è mezzo punto percentuale, più di mezzo punto percentuale in meno, quindi ci costa meno indebitarci, trovare finanziatori per il nostro debito. E il BTP a 5 anni rende il 2,80% contro il 3,65% precedente. Buona anche la domanda, perché 8 miliardi 300 milioni per 6 miliardi di offerte. Tant'è che lo spread nostro è sceso a 270 punti, ottimo livello direi, visto che a 220-200 è considerato il livello normale, quello che abbiamo avuto fino al marzo-aprile del 2011. Per cui 270 è un buon livello e infatti festeggiano le banche in borsa. A raffreddare cautissimi entusiasmi, oggi ci ha pensato però Moody's. Allora, l'agenzia di rating Moody's, tra l'altro ha parlato un funzionario non meglio specificato, un funzionario di Moody's. Ora, intanto mi piacerebbe che parlasse a livello ufficiale chi è il responsabile, per esempio, del rating, dei voti all'Italia, e non quello che le agenzie citano come un funzionario. A maggior ragione, se questo funzionario, che poi con massimo rispetto per i funzionari, ce ne sono di diversi livelli, questo funzionario ha detto una frase leggera: non è ancora possibile escludere la possibilità che l'Italia possa chiedere aiuto alla banca centrale in futuro. Quindi l'Italia non è detto che non chieda aiuto. E ha continuato: Moody's verificherà la capacità del nuovo governo italiano di perseguire le riforme. La situazione resta difficile. Allora, su questo non avevamo bisogno di Moody's, ci arrivavamo anche da soli. Sul resto mi auguro, ma non è arrivato nulla, che Moody's precisi, smentisca, dia un'informazione da una fonte più autorevole di un funzionario anonimo, il quale nel suo anonimato, il caro funzionario di Moody's, si becca il nostro gufo. Al funzionario di Moody's e a Moody's, anche perché dire non è ancora possibile escludere, che cosa cavolo vuol dire? Non è ancora possibile escludere che io faccia un incidente in macchina stasera, adesso qualche gesto scaramantico lo faccio, tanto non mi vedete, ma cosa vuol dire? Per creare un po' di panico in più? Perché la situazione si sta troppo normalizzando? Perché i soci dell'agenzia di rating preferiscono elementi più speculativi, visto che sono fondi di investimento? Chiedo, è una domanda, immagino di no, ci mancherebbe. Moody's opera nella totale autonomia e non sente assolutamente il peso dei suoi fondi di investimento. Allora, l'agenda letta alla prova del Parlamento, alla piazza dei mercati. Adesso ha fatto l'intervento alla poi arriverà la fiducia dell'intervento alla Camera, ci sono le repliche, però alcuni passaggi poi li ascolteremo tutti per esteso alle 18. Alcuni passaggi importanti ve li riassumo io brevemente. È una delle stagioni più complesse di sempre, ha detto Enrico Letta. Parlerò con il linguaggio sovversivo della verità. E poi la cosa per questo programma più importante è di solo risanamento l'Italia muore. Adesso è il momento della ripresa. E la cosa che forse ha destato il maggiore interesse in assoluto sono due passaggi: quelli sul lavoro, sugli esodati, e quelli sull'IMU. Allora, sull'IMU Enrico Letta ha detto: bisogna superare l'attuale sistema sulla tassazione per la prima casa, intanto da subito con lo stop sui pagamenti di giugno, per permettere al Parlamento di attuare una riforma complessiva del sistema di imposte. Quindi blocco del pagamento IMU, della rata IMU di giugno. E poi ha aggiunto anche con una critica nemmeno tanto velata all'ex ministro Fornero. Comunque ascoltiamo questo passaggio sull'IMU. La riduzione fiscale senza indebitamento sarà un obiettivo continuo e a tutto campo. Anzitutto quindi ridurre le tasse sul lavoro, in particolare su quello stabile e quello per i giovani neoassunti. Poi una politica fiscale della casa che limiti gli effetti recessivi in un settore strategico come quello dell'edilizia. Includere incentivi per ristrutturazioni ecologiche, affitti e mutui agevolati per giovani coppie. Poi bisogna superare l'attuale sistema di tassazione della prima casa. Intanto con lo stop ai pagamenti di giugno, per dare il tempo a governo e Parlamento di elaborare insieme e applicare rapidamente una riforma complessiva che dia ossigeno alle famiglie, soprattutto quelle meno abbienti. Così sull'IMU, dicevamo dell'intervento del neo Presidente del Consiglio sugli esodati. Con gli esodati si è rotto un patto, molto netto il giudizio di Enrico Letta. C'è un impegno a ristabilirlo. Allora, col massimo rispetto per l'ex ministro Fornero, noi per ottenere dal ministro Fornero delle scuse siamo arrivati a giugno dell'anno scorso alla Festival dell'Economia, quando ci disse, se non ricordo male, anche in esclusiva: se vuole sapere se ho sbagliato, le dico che ho sbagliato. Cioè, il balletto sugli esodati, come abbiamo fatto notare in tempi non sospetti, non sto dicendo che la colpa fosse dell'ex ministro Fornero, sto dicendo che se tu fai una legge in cui viene fuori un pastrocchio perché lasci 80, 60 mila, 130, 140 mila, non si capiva niente nemmeno sulle cifre, non gliele dava l'INPS, sono fatti loro. Dico semplicemente che se tu crei un pastrocchio per cui ci sono decine di migliaia di persone che si ritrovano senza la pensione e senza il lavoro perché avevano accettato gli scivoli per uscire, beh, la prima cosa che fa un governo tecnico politico, non mi interessa, è chiedere scusa. L'abbiamo detto in tutti i modi: scusate, abbiamo sbagliato. Non ma l'INPS mi dice una cosa, l'INPS ribatte, il duello Mastrapasqua Fornero, per cortesia. E poi ha detto Enrico Letta: lavoreremo per ridurre il costo del lavoro, le tasse sul lavoro, quello, sia quello stabile sia quelle per i giovani e sui neoassunti. Occorre estendere gli ammortizzatori sociali precari ed è un suicidio per la nostra economia non investire sui giovani. Non devono esistere generazioni perdute, quella di chi ha adesso 20 anni, già battezzata la generazione perduta, è una ferita mortale. È allo studio il reddito minimo per le famiglie bisognose. Vado ancora avanti. Abolire definitivamente le province, perfezionare la riforma del titolo quinto, quello sul federalismo. Ancora a chiedere all'Unione Europea delle strategie per arrivare alla crescita senza compromettere il risanamento della finanza pubblica. Il nostro è un governo europeo ed europeista, andrò a Bruxelles a parlarne domani. Sarà tra l'altro Enrico Letta dalla cancelliera Angela Merkel, ricevuto con gli onori militari, ha comunicato il governo tedesco stesso. Conferenza stampa alle 18. E poi a Bruxelles vedrà il presidente permanente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy. e incontrerà anche il presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso. Ancora nomineremo un commissario unico per l'Expo, dovrebbe essere una delle prime uscite in Italia del neo premier, quella a Milano, perché serve, come abbiamo raccontato anche due settimane fa, serve urgentemente un commissario con poteri straordinari per l'Expo. E poi il titolo che probabilmente diventerà, o meglio la frase che probabilmente diventerà il titolo: siamo Davide davanti a sfide gigantesche. Tutto questo Enrico Letta, il neo presidente del Consiglio, lo ha detto nel giorno in cui abbiamo scoperto, oltre ai dati della Banca d'Italia e quindi il fatto che peggiori le sofferenze bancarie, ma non solo, nel giorno in cui l'Istat ci ha fatto sapere che la fiducia delle imprese è ai livelli più bassi da quando esiste questo dato, dal 2003, ad aprile, non 10 mesi fa, ad aprile del 2012 la fiducia delle imprese è crollata a 74,6 punti. Chi se ne frega dei punti, la cosa importante è capire che un dato così basso non c'era mai stato sulla fiducia dal gennaio del 2003, da quando abbiamo iniziato a fotografare sta fiducia. E poi che anche qui l'Osservatorio Nazionale sulle Salute nelle regioni italiane, a margine della presentazione del rapporto Osserva Salute, ha fatto notare che, nonostante, voglio essere molto preciso su questo, anche perché un anno fa partimmo con un'iniziativa che si chiamava Disperati Mai, nonostante i numeri dei suicidi per cause economiche restino piccoli, l'aumento, questo lo dico anche chi era quel tedesco che diceva in Italia non è vero che la situazione è peggiorata, non era solo Schäuble, era qualcun altro, comunque negli ultimi 4 anni il numero di suicidi dovuti a motivazioni economiche, anche se resta per fortuna basso come numero, è aumentato del 30%, e questa notizia non ha bisogno di commenti, mentre un commento tocca farlo anche oggi, anche se festeggiamo un neogoverno che ha degli obiettivi economici importanti, sulla spesa della pubblica amministrazione, sulla gestione del denaro pubblico nei nostri enti locali. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Abbassare, non tregge più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu, drag e più. C'è un silenzio tombale all'ospedale Scarlato, perché l'ospedale di Scafati appare come una cattedrale nel deserto. Che cosa è successo? L'inaugurazione l'anno scorso del cosiddetto polo di lungodegenza, 16 posti letto, ma attende la tanto annunciata e sempre rinviata apertura del reparto, siamo chiaramente in provincia di Salerno, del reparto di broncopneumologia. La buona notizia è che la settimana prossima dovrebbero essere consegnati i lavori, dentro giugno, a distanza di quasi un anno dall'annunciata apertura, forse si taglierà il nastro. Ci sono altri due poli, la medicina, la reumatologia, dialisi, laboratorio analisi e il primo soccorso, che fa tanto discutere. Già il plesso non ha più l'emergenza nonostante la croce esterna che indica il pronto soccorso. Qualcuno arriva ancora pensando di trovarlo, ma è costretto a rimettersi in auto perché non c'è più, e dirigersi verso Sarno Nocera. Frattanto la battaglia politica continua con il sindaco Pasquale Alberti, che annuncia pubblicamente il reinserimento dell'ospedale nella rete di emergenza. L'AS di Salerno non risponde, ma lo fanno i politici di sinistra e di centrodestra. I corridoi sono sempre vuoti, il parcheggio ampio, semideserto, nell'ex pronto soccorso il lavoro è poco, è l'ospedale forse più silenzioso d'Italia. Io non so cosa deciderà, se vi sarà un eventuale ricorso al giudice del lavoro. Io mi auguro che il giudice del lavoro non lo dico col massimo rispetto, però abbiano anche un atteggiamento che faccia venire meno quel luogo comune per cui il giudice del lavoro dà sempre ragione a prescindere al lavoratore. Allora, dà ragione a chi ha ragione. Perché lo dico? Perché a Palermo, nel comune di Palermo, è stato licenziato un dipendente per assenza arbitraria e ingiustificata. Il dipendente in servizio presso l'avvocatura comunale avrà 2 mesi di tempo per un eventuale ricorso. Che cosa aveva fatto? Non era rientrato da un periodo di congedo dovuto a cavallo fra il 2012 e il 2013 e risultava assente da gennaio. Nonostante la procedura disciplinare avviata, il dipendente non ha fornito alcuna spiegazione del suo comportamento. Allora, per carità, insomma, hai anche modo per giustificarti, ma se tu da gennaio non sei rientrato al lavoro in qualunque posto del mondo, è chiaro che ti licenziano, no? E l'amministrazione ha inoltre deciso di riprocedere al recupero delle somme percepite indebitamente dal dipendente. Sempre sul tema dei dipendenti assenteisti o fannulloni, l'azienda municipale igiene urbana LAMIU di Bari dà la caccia ai netturbini fannulloni. Nel corso di un blitz hanno trovato 5 dipendenti che avevano terminato prima del previsto servizio. Per loro partiranno le contestazioni iscritte all'azienda e anche il rischio è anche una sospensione del lavoro. E risale a pochi mesi fa un altro provvedimento preso sempre dall'azienda nei confronti di altri 5 dipendenti licenziati perché trovati a frequentare, ne avevamo parlato, non so se ve lo ricordate, un'enoteca durante l'orario di servizio. Io capisco, adesso cerchiamo di essere anche laici e flessibili, io capisco l'ombra de vin, come si chiama, o il bicchierino, però insomma l'enoteca così, beh. Questo grazie anche alle segnalazioni da parte di alcuni cittadini che avevano notato comportamenti sospetti da parte di alcuni netturbini. Faccio notare che in Spagna è passata la settimana scorsa, ce ne siamo occupati anche nei GR, una regola per cui sostanzialmente viene chiesta la delazione anche anonima dei cittadini nei confronti degli impiegati della pubblica amministrazione assenteisti. Ora, io sono sempre contro la delazione, però insomma è giusto anche che, così come un normale privato si sente controllato dal cliente, è giusto anche che i dipendenti della pubblica amministrazione che si possano segnalare quei dipendenti che non sono presenti al lavoro. Vedo che qualcuno contesta anche questo, vabbè. Andiamo con il meteo e la pubblicità e poi la chiusura di borsa, ma soprattutto le indicazioni che arrivano dall'Europa. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. ...17:37 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vediamo di fare un test. Voi cosa farete fino a luglio, fino al 10 di luglio? Perché fino al 10 di luglio in realtà tutti noi in media pagheremmo le tasse, lavoreremo per pagare le tasse, poi magari uno quel giorno in vacanza, glielo auguro, anche la settimana prima. Anche qui stiamo attenti perché, ripeto, con l'evasione che ha questo paese, c'è qualcuno che le tasse ha finito di pagarle a metà gennaio, alcuni con la Befana, altri manco con Capodanno, e altri che invece avranno una pressione fiscale, come spesso dichiariamo, che non è quella 44% del PIL ufficiale, ma arriva al 53-54%. Poi chiaramente per i redditi bassi si finirà prima, ma insomma questa è la media. Fino al 10 luglio, pensate che l'anno scorso, riferito ai dati dell'anno prima, ci si fermava al 3 luglio, cioè dal 3 luglio in poi quello che guadagnavi ti serviva per vivere, non ti serviva più per pagare le tasse. La cosa che più impressiona è la classifica dei paesi dove si pagano, dove più devi lavorare per pagare le tasse, e noi siamo sesti, eravamo settimi l'anno scorso, ma è scivolata dietro di noi la Svezia, che dove si lavora un po' di meno per pagare le tasse con servizi migliori. In cima alla classifica resta il Belgio, dove bisogna lavorare fino all'8 di agosto. Poi segue la Francia, bisogna lavorare fino al 26 luglio, Austria 23 luglio, Ungheria 16 luglio, Germania 13 luglio, sempre sopra di noi, poi Italia 10 luglio. Antonio Pollio Salimbeni, corrispondente di Radio Corriere Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera a voi. Faccio notare che Francia, Austria, Ungheria non lo so, Germania anzi non penso, e Svezia hanno un servizio, diciamo, per le tasse pagate leggermente diverso, Antonio. Comunque... Certamente, certamente un primo problema evidente è che rispetto al 2012, seguendo sempre la lista di questi due istituti di ricerca, in Italia bisognerà lavorare una settimana in più nel 2013. Detto questo, bisogna prendere questi dati con una certa dose di, non di scetticismo, ma di attenzione, per il semplice fatto che nulla ci dicono questi due rapporti sul livello e sulla qualità della spesa pubblica, cioè che cosa concretamente si fa con i soldi incamerati dalle imposte, e questo naturalmente fa la differenza fra paese e paese. Allora, tra l'altro i dati appunto diffusi oggi da Bruxelles, abbiamo visto appunto la pressione fiscale nei 27 paesi, vede appunto la media europea al 38,8%, nell'area euro è ancora più alta, 39,5% contro il, questi dati sono riferiti al 2011, contro il 39% del 2010, noi siamo stabili con il 42,5% e appunto sesti per carico fiscale. Ma la pressione fiscale sul lavoro in realtà è in leggero calo, leggero, però sono quasi mezzo punto percentuale nel rapporto Eurostat, Antonio. Sì, di quasi di 0,4%, resta pur sempre al 42,3%, è il secondo paese dopo il Belgio che con 42,8% che ha il maggiore livello di tassazione sul lavoro. L'imposizione sul lavoro poi rappresenta la parte più preponderante dell'insieme delle fonti di imposizione. È chiaro che proprio in questo periodo si discute molto in Europa della necessità di spostare la tassazione dal lavoro alle altre fonti, in particolare laddove si può consumi e laddove si può la proprietà. Adesso arriverò anche a questo punto con te, perché poi in qualche modo anticipa il ragionamento che faremo nella seconda ora ascoltando i passaggi principali dell'intervento del neo Presidente del Consiglio Enrico Letta. Volevo dare ancora due aggiornamenti, però in questo caso è la Banca d'Italia la fonte, che non solo ha fatto notare come il clima di fiducia delle imprese sia andato ai livelli minimi da quando esiste il dato, dal gennaio del 2003, la Banca d'Italia fa anche notare che nel 2012 le famiglie italiane hanno visto diminuire la loro ricchezza a seguito del calo dei prezzi delle case, ma hanno anche ridotto il loro indebitamento a causa del forte indebolimento della domanda di prestiti, cioè si consuma meno, si chiedono anche meno soldi in prestito, aggiungo io. E prosegue il ritorno, invece, questa è una buona notizia, degli investitori stranieri sui nostri titoli di Stato. A inizio 2013 c'erano consistenti flussi, forti flussi di capitali esteri per comprare BTP, la quota del debito in mano agli stranieri quindi è tornata verso il 30% già a fine del 2012, cioè è tornata a risalire. Questa è obiettivamente una buona notizia, conclude la Banca d'Italia. Dice: è cruciale garantire la riduzione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione entro i limiti di 30-60 giorni fissati dalla direttiva europea. E per quello che riguarda invece le sofferenze e i mutui delle famiglie, non le sofferenze delle imprese in banca, la Banca d'Italia non vede particolari criticità per il pagamento dei mutui sulla casa da parte delle famiglie, nel senso che le sofferenze non sono a un livello di allarme. Detto questo, Antonio, Enrico Letta nel suo intervento alla Camera ha chiarito tra i vari punti che non si può pensare di andare avanti solo col risanamento. Ha detto testualmente: di solo risanamento l'Italia muore, adesso occorre la ripresa. Ha indicato nella riduzione della tassazione sul lavoro un possibile indirizzo, ridurre le tasse sul lavoro stabile e dei neoassunti, e quindi ridurre anche il costo del lavoro, estendere gli ammortizzatori sociali precari, il reddito minimo è allo studio, e soprattutto eliminare l'IMU, perché l'abbiamo fatto ascoltare in maniera netta, ha detto insomma l'IMU va bloccata la rata di luglio. Ora, fammi capire, qui ragioniamo su 11 miliardi forse di manovra, 4 miliardi di IMU che di gettito. Secondo te, se l'Italia chiedesse a Bruxelles quello che hanno già ottenuto Spagna e Francia, e cioè andiamo, manteniamo l'impegno al deficit zero, ci mettiamo un anno di più in un percorso virtuoso, potrebbe passare o no? Non si può dire, è possibile, ma perché l'alternativa è fare una manovra finanziaria o fare i tagli lineari alla spesa, cioè continuare con l'austerità e il solo rigore, perché sennò i soldi non escono. Prego. Su questo non c'è dubbio. Il punto al quale si troverà di fronte Letta, che peraltro da domani comincia il primo tour politico in Europa, e mercoledì sarà a Bruxelles per incontrare. E domani è in Germania con la Merkel, no? Sì, esatto, per incontrare Van Rompuy, il presidente UE, poi Barroso, il commissario agli affari economici Olli Rehn. Si tratta di capire se l'Italia non ce la farà o ce la farà a mantenere il deficit in rapporto al prodotto lordo quest'anno sotto il 3%. È in quel momento che il governo dovrà decidere se aprire un fronte per seguire la Francia, la Spagna, il Portogallo e quanti altri per avere più tempo o meno. Non teniamo presente che finora, almeno fino al governo Monti, l'operazione italiana era di restare poco sotto il 3%, 2,9% quest'anno, per poter pagare alle imprese gli arretrati della pubblica amministrazione. E questo che è una vera manovra di facilitazione delle cose per le imprese. È la vera manovra, diciamo, keynesiana, se vogliamo, perché dà reddito disponibile, dà liquidità alle imprese per investire e per operare. Si tratta di capire che cosa deciderà il governo italiano. Le condizioni politiche in Europa per una visione più flessibile e più procrescita sono chiare, anche se la Commissione europea evita accuratamente di fare di questa linea una strategia complessiva. Siamo sempre, dicono, sulla linea del caso per caso, paese per paese. Però questa concessione di più tempo con l'assicurazione che si faranno riforme strutturali molto più pesanti di quanto preventivato, coinvolgerà il 40-45% di tutta l'area eurozona. È difficile pensare che non si tratti di una strategia. Sì, anche secondo me è difficile non pensare che si tratti di una strategia, nel senso che una volta che poi tu l'hai data alla Spagna e alla Francia questa possibilità, adesso va ben tutto, però è molto chiaro quello che tu dicevi, è importante che l'Italia stia sotto il 3% quest'anno, intanto per far partire i pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese che li devono, e poi per dimostrare un certo virtuosismo, dopodiché secondo me soprattutto dopo settembre, dopo le elezioni tedesche, andare a dire all'Europa, guarda che invece che il pareggio nel 2013 lo facciamo nel 2014, no? C'è anche una deviazione dello 0,5-0,8 in un percorso virtuoso, Antonio, non sarebbe un dramma, però permetterebbe di avere 11-12 miliardi in più, questo per essere chiari. Al di là, le cifre sono importanti, l'ammontare è importante, e qui è una decisione politica. Se il governo Letta decide di trovare gli spazi per poter finanziare investimenti pubblici arrivando un po' più lentamente al pareggio, a condizioni di crescita, alle condizioni di crescita previste, che è una crescita molto bassa, oppure no, oppure di stare sopra il 3% e far filare il deficit come stanno facendo altri paesi. Le condizioni del debito pubblico italiano e della crisi sovrastante del debito sovrano e anche la condizione delle banche probabilmente non permettono la seconda strada, ma questa è la valutazione che si vedrà appunto a settembre o ottobre. L'Italia probabilmente ha tutto l'interesse a stare nei limiti del 3%, a usare tutti gli strumenti di flessibilità che le regole europee comunque permettono. Grazie, saranno giorni di lavoro anche per te, Antonio, appunto perché domani va a Berlino, ricevuto con gli onori militari il neo premier Nicoletta, però poi va appunto a Bruxelles dove incontra Van Rompuy, Barroso, e quant'è. E da lì qualche indicazione arriverà. Grazie intanto al corrispondente da Bruxelles di Radio Colle Sole 24 Ore, Antonio Poglio Salimbeni, traffico e poi la borsa. A 7:49 minuti, ci sono alcuni ascoltatori che dicono tutte parole, quelle di Letta. Beh, ragazzi, per ora siamo all'intervento programmatico, è chiaro che sono parole, vedremo, però sono parole a mio avviso pesanti, sull'IMU vedremo, sulla riduzione delle tasse in busta paga, del cuneo fiscale vedremo, ma non è che siano state solo parole di, da quello che abbiamo ascoltato, di grandi intenti, di grandi scenari. È entrato anche nel vivo di alcune azioni di governo, ha detto che insomma farà un bilancio fra 18 mesi sulle riforme effettuate. Quello riguarda più la parte politica, cioè riduzione dei numeri parlamentari, eliminazione delle province e del tipo di finanziamento ai partiti, o meglio rimborso elettorale, che poi altro non è che un finanziamento ai partiti, e riforma della legge elettorale. Noi per adesso andiamo alla borsa, che ha festeggiato, oltre che Letta, soprattutto lo spread, è sceso da 270 punti, mai così basso dall'ottobre del 2010, ripeto, quindi almeno 6-7 mesi prima che partisse l'attacco speculativo sul debito italiano e spagnolo, e allora borsa sia. Più 2,20% Milano, che è la migliore tra quelle più importanti, Parigi più 1,5%, Francoforte più 0,70%, Londra più 0,50%, gli Stati Uniti più 0,45%. Lo spread ha influenzato tutte le banche, quindi Monte dei Paschi più 6,90%, ma che fa caso a sé, adesso ne parliamo, e poi UbiBanca più 3,44%, Emilia Romagna più 3,35%, Banco Popolare più 3,20%. Ancora Intesa San Paolo più 2,60, come Unicredit, mi manca qualcosa, Mediobanca più 1,85%. Ha fatto caso a sé invece la Popolare di Milano, meno 3,90%. Chiedo delucidazioni a Ceo Condina, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. E qui pesa sicuramente il no dei soci, insomma dei soci della Popolare di Milano al voto a distanza che doveva essere applicato. No dei sindacati soprattutto, se sì, l'ho visto. Sì, che poi rappresentano la maggior parte dei soci. Sì, certo. Nella prossima assemblea, ma diciamolo, in realtà la votazione sul voto a distanza era una votazione, per così dire, mascherata su quello che sarà il principale oggetto all'ordine del giorno della prossima assemblea, e cioè la trasformazione in SPA della banca. Un'ipotesi questa che aveva spinto il titolo nelle ultime settimane, un rialzo molto consistente. Dopo la bocciatura del voto a distanza, anche questa ipotesi comincia a essere un pochino meno probabile, e quindi i mercati hanno immediatamente punito il titolo. Sì, io devo dire, insomma, adesso non entro nel dibattito, ogni azionista della BPM può dire quello che vuole, però mi sembrava una grande bestemmia il voto a distanza su una decisione così importante, ossia la trasformazione della Popolare di Milano da banca popolare in banca normale, non più popolare, cioè, anche perché più voti hai in quel caso su una decisione così importante, più sei autorizzato. Non capisco quale sia il problema del voto a distanza, cioè. Neanche io sinceramente, però diciamo che era una soluzione che era caldeggiata dal Presidente del Consiglio di Gestione, Andrea Bonomi, che da quando ha rilevato il controllo della banca fondamentalmente ha tentato di dare un'interpretazione più I sindacati saranno presenti perché banca. Fanno quello di lavoro, ma mi chiedo, un piccolo azionista della Popolare di Milano che abita in Veneto, in Piemonte, in Emilia, in Lazio, deve per forza venire, prendersi il giorno di lavoro, venire a partecipare all'assemblea, qua nel 2012 non si poteva fare un voto a distanza, a meno che non sia l'intento per dire, insomma, tra virgolette, eliminiamo alcuni azionisti che altrimenti avrebbero votato in maniera indiretta. Mi ricordo un po', ma non c'entra nulla, il modo in cui il PD ha organizzato le primarie nei due turni, complicazioni su complicazioni, che sembravano avere un indirizzo molto chiaro. Andiamo avanti. A2A, molto bene oggi in borsa. Eh sì, è stata favorita, è stata favorita così come i titoli bancari dal restringimento dello spread. La società resta comunque indebitata in modo significativo, ma qui contano anche i conti, come sappiamo sono stati diffusi più di un mese fa, a metà marzo. Da quel giorno, era il 13 marzo, il titolo ha guadagnato praticamente il 50%, oggi un più 6%, e l'azione si è portata ormai a ridosso di quota 0,6 euro. Ancora Telecom Italia, ben inteso, apro un inciso, se qualche azionista della BPM vuole scriverci o su Facebook o al 349-238-6666 per farci capire perché il voto di stanza non andava bene nell'azione legittima di partecipazione alle decisioni di una banca, essendo tu azionista, accogliamo e leggiamo volentieri anche la spiegazione, perché onestamente non ho capito per quale motivo. Chiuso sulla BPM, dicevamo di Telecom, bene anche oggi in borsa, più 3,70%, c'è molta attesa per il Consiglio di Amministrazione dell'8 maggio. Sì, quello sarà molto probabilmente il giorno decisivo per capire se potrà prendere forma l'integrazione tra la società, appunto, Telecom Italia e H3G, poi tutto il piano, insomma, di riassetto, come ben noto, comprende una valorizzazione di Telecom Italia pari a 1,2 euro nel caso la controllante di Tre Italia decidesse di comprare altre azioni dagli attuali soci di Telecom, e quindi il titolo continua a viaggiare a rialzo. Ancora Mediaset, qui c'entra la situazione politica, più 4,70%. Assolutamente, una situazione politica che per quanto riguarda gli azionisti di controllo di Mediaset è sicuramente stabile, non si intravedono all'orizzonte, diciamo, misure drastiche contro le reti del Biscione, quindi chiaramente il titolo ne viene favorito. Allora, due cose che devi aiutarmi a capire, però prima vado a dare due notizie in breve. Fiat ha chiuso il primo trimestre 2013 con l'utile netto di 31 milioni di euro a fronte dei 262 milioni dello stesso periodo 2012, e poi confermati gli obiettivi del gruppo nel 2013, l'utile a 1,2-1,5 miliardi. Il titolo oggi si è mosso poco in borsa, anzi meno 1,20% nel finale. Fiat Exor più 0,50%. Profumo, e qui vengo al Monte dei Paschi, la prima domanda. Il Monte dei Paschi ha detto, il presidente Profumo ha detto, il rimborso dei Monti Bond non è scontato. Il titolo ha guadagnato tantissimo oggi, 6,90. Guarda, il titolo oggi ha guadagnato essenzialmente per il discorso che facevamo prima dello spread, insomma. Per cui nessun riferimento alle dichiarazioni di Profumo. Non particolare, diciamo che Monte dei Paschi è particolarmente esposto allo spread, anche perché ha forti portafogli di titoli di Stato. Quindi parecchia roba. È passato dai derivati ad altissimo rischio ai titoli di Stato, no? Cosa? Da Gordon Gekko a mia nonna. Vabbè, andiamo avanti. Che è successo al titolo Rizzoli Corriere della Sera? Ha perso il 2,5%. È arrivato a perdere il 5 dopo i conti di questa mattina. Sì, però considerato che poi è stata una seduta particolarmente positiva, anche il 2,5% è un risultato, insomma, che balza all'occhio. Ieri c'è stata grande tensione nel CDA, che era chiamato fondamentalmente ad approvare l'aumento di capitale che poi verrà portato nell'assemblea di fine maggio. Benetton e Della Valle hanno votato contro l'aumento di capitale, ricordiamo che si tratta di due soci: Benetton controlla il 5% del capitale, Della Valle l'8,7% del capitale. Fiat e le banche comunque garantiscono sull'inoptato, però tutto ciò rappresenta sostanzialmente comunque il fatto che resta grossa tensione, grossa incertezza attorno alla manovra da 400 milioni e poi da addizionali altri 200 milioni per rimettere in sicurezza il gruppo. E dopo il GR parleremo anche del nostro gruppo, del gruppo Sole 24 Ore, oggi assemblea infatti degli azionisti. Grazie a CEO Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore. Chiaramente ascolteremo anche i passaggi principali di carattere economico dell'intervento del neo premier Enrico Letta. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo alcuni messaggi, immagino, di azionisti della BPM sul voto a distanza bocciato. Voto, dunque, alcuni dicono, ma insomma, perché alcuni sono a favore, voleva impedire forse manipolazione dei top managers sui voti dei dipendenti attraverso le deleghe. Vabbè. E poi altri dicono può essere manovrato da hacker. Vabbè, questo allora. E poi ancora alcuni dicono attenzione perché il voto a distanza avrebbe penalizzato i sindacati che sono per non fondersi, per non perdere enormi, per non diciamo trasformarsi in SPA, per non perdere enormi privilegi. Non lo so, queste sono le ipotesi che sono circolate. A me risulta strano, insomma, bocciare un voto a distanza. Ho capito gli hacker, allora basta. Allora blocchiamo tutto il processo di informatizzazione anche della pubblica amministrazione, se è per questo motivo. Devo parlare invece del Sole 24 Ore, perché oggi si è tenuta l'assemblea degli azionisti e è stato anche nominato il nuovo consiglio di amministrazione del Sole 24 Ore, che rimarrà in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015. Nei consigli di amministrazione nominati Carlo Valerio Ticozzi, Mario Mirarchi, Benito Benedini, Donatella Treu, Marcella Panucci, Maria Carmela Coliacove, Luigi Abete, Antonio Bulgheroni, Marco Venturi, Alessandro Spada e, come proposto dalla lista degli azionisti di minoranza, anche Mario D'Urso. L'assemblea ha ringraziato il presidente uscente Giancarlo Ceruti per l'impegno, la dedizione e la passione con cui ha svolto il suo mandato dal 2001 al 2004 in qualità di vicepresidente operativo e poi dal 2007 al 2013 quale presidente della società. È stato l'ultimo bilancio approvato appunto da Giancarlo Ceruti, il neo presidente e appunto Benito Benedini. Vorrei solo leggere un passaggio del discorso molto articolato che ha fatto il presidente uscente dopo 12 anni di servizio, che riguarda anche il futuro dell'editoria. Un passaggio in cui Ceruti ha ricordato che dobbiamo essere completamente coscienti che la pubblicità non è più e difficilmente potrà tornare ad esserlo in futuro la coperta che copre ogni cosa, il benessere dell'azienda e talvolta le comodità o gli errori di tutti. Invece il giornalismo del Sole 24 Ore ha una sua fortissima specificità che va difesa e sviluppata e anche fatta pagare, non soltanto attraverso la pubblicità. Su questa strada siamo avanti rispetto ai competitors, ma dobbiamo allungare il passo con più determinazione. Allora, grazie al presidente uscente Ceruti, in bocca al lupo al neo presidente Benito Benedini. Noi adesso invece ci occupiamo del neo presidente del Consiglio e mi riferisco chiaramente a Enrico Letta e i passaggi più di carattere più economico e quindi di politica economica, che vuol dire anche welfare, lavoro e tassazione, dell'intervento fatto oggi alla Camera. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Eccezionale perché tale è il momento che l'Italia e l'Europa si trovano a vivere oggi. Di fronte all'emergenza, il Presidente della Repubblica ci ha invitato a parlare il linguaggio della verità. Ci ha chiesto di offrire in extremis al Paese e al mondo una testimonianza di volontà di servizio e senso di responsabilità. Ci ha concesso un'ultima opportunità. L'opportunità di dimostrarci degni del ruolo che la Costituzione ci riconosce come rappresentanti della nazione, degni di servire il Paese attraverso il rigore, l'esempio, le competenze, in una delle stagioni più complesse e dolorose della storia unitaria. Accogliendo il suo appello, intendo oggi rivolgermi a voi proprio con il linguaggio sovversivo della verità, confessandovi che avverto fortissimi in questo momento la consapevolezza dei miei limiti e il peso della mia personale responsabilità, ma impegnandomi a fare di tutto affinché le mie spalle siano larghe e solide al punto da reggere nelle vesti di Presidente del Consiglio di un governo che richiede qui e oggi la fiducia del Parlamento. Una delle stagioni più complesse di sempre, così l'ha definita il neo premier Enrico Letta, e per quello che riguarda poi gli impegni di carattere economico, Letta ha definito il debito pubblico che grava come macina sulle generazioni presenti e future, e poi ha detto occorre uscire dal disavanzo eccessivo e recuperare spazi di manovra. Occorre che in Europa, nelle sedi europee, si individuino strategie per arrivare a una crescita senza compromettere il risanamento della finanza pubblica. La prima verità è che la situazione economica dell'Italia è ancora grave. Abbiamo accumulato in passato un debito pubblico che grava come una macina sulle generazioni presenti e future, e che rischia di schiacciare per sempre le prospettive economiche del Paese. Il grande sforzo di risanamento compiuto dal precedente governo, guidato dal senatore Mario Monti, è stato premessa della crescita, in quanto la disciplina della finanza pubblica era e resta indispensabile per contenere i tassi di interesse e sventare possibili attacchi finanziari. Il mantenimento degli impegni presi con il documento di economia e finanza è necessario a uscire quanto prima dalla procedura di disavanzo eccessivo e per recuperare margini di manovra all'interno dei vincoli europei che vogliamo rispettare. Nelle sedi europee e internazionali l'Italia si impegnerà poi per individuare strategie per ravvivare la crescita senza compromettere il processo necessario di risanamento della finanza pubblica. E qui entriamo nel vivo delle scelte, perché Letta l'ha detto chiaramente: senza compromettere il risanamento della finanza pubblica occorre però pensare anche alla crescita. C'è un passaggio ancora più importante, o meglio ancora più chiaro forse, in cui il neo premier dice di solo risanamento l'Italia muore, e questa è una discontinuità con quello che abbiamo visto fare dal governo Monti. Ho capito che Monti poi dice non ha avuto tempo per fare il resto, però insomma, ora bisogna pensare alla ripresa, ha aggiunto Letta, servono crescita e coesione, il paese può farcela. Di solo risanamento l'Italia muore. Dopo più di un decennio senza crescita, le politiche per la ripresa non possono più attendere. Semplicemente non c'è più tempo. Tanti cittadini, troppe famiglie sono in preda alla disperazione e allo scoramento. Pensiamo alla vulnerabilità individuale che nel disagio, nel vuoto di speranze, rischia di tramutarsi in rabbia e in conflitto, come dimostra e ci ricorda lo sconcertante fatto avvenuto ieri stesso dinanzi a Palazzo Chigi. Senza crescita e senza coesione l'Italia è perduta. Il Paese invece può farcela, ma per farcela deve ripartire. E per ripartire tutti devono essere motori di questa nuova energia positiva. L'architrave dell'esecutivo sarà l'impegno a essere seri e credibili sul risanamento e la tenuta dei conti pubblici. Basta coi debiti che troppe volte il nostro Paese ha scaricato sulle spalle e la vita delle generazioni successive. Quelle nuove di generazioni hanno imparato sulla propria pelle e non faranno lo stesso con i propri figli. E poi le misure concrete a partire dall'IMU. Mentre ringrazio per averci raggiunto in collegamento Dino Pesole, buonasera Dino, del Sole 24 buonasera, Ore. Buonasera, grazie. La parte sull'IMU, che è quella assieme alla critica agli esodati, che però ha un impatto meno economico, quella che anche ha suscitato la maggiore eco. Sentiamo questo passaggio sull'IMU. La riduzione fiscale senza indebitamento sarà un obiettivo continuo e a tutto campo. Anzitutto quindi ridurre le tasse sul lavoro, in particolare su quello stabile e quello per i giovani neoassunti. Poi una politica fiscale della casa che limiti gli effetti recessivi in un settore strategico come quello dell'edilizia. Includere incentivi per ristrutturazioni ecologiche, affitti e mutui agevolati per giovani coppie. Poi bisogna superare l'attuale sistema di tassazione della prima casa. Intanto con lo stop ai pagamenti di giugno, per dare il tempo a governo e Parlamento di elaborare insieme e applicare rapidamente una riforma complessiva che dia ossigeno alle famiglie, soprattutto quelle meno abbienti. Dino Pesole, dopo il traffico vorrei sapere da te una cosa banale, dove li troviamo i soldi? Perché è chiaro che c'è una richiesta del PDL più che legittima sull'IMU e Letta la ripresa, ha anche aggiunto che bisogna ridurre le tasse sul lavoro, ridurre il costo del lavoro e le tasse sul lavoro stabile dei neoassunti. Io però, dando come sempre si fa in questi casi al neo presidente del Consiglio i 100 giorni di beneficio, però ricordo che stiamo ragionando di un'ipotesi di manovra bis correttiva da 10-11 miliardi, l'IMU, avete sentito, verrà bloccata, sono 4 miliardi, dove li troviamo sti soldi? Tagli lineari oppure cosa? Dopo il traffico. Dino Pesole, dove li troviamo i soldi per fare quello che Letta, insomma, in qualche modo ha fatto capire vorrebbe fare? Due possibilità: o tagli lineari alla spesa, allora, escludendo l'aumento delle tasse, perché elevare l'IMU e elevare le tasse in busta paga per aumentare le tasse di altro genere non mi sembra una gran mossa, o tagliamo la spesa, ma visti i tempi, mancano 2-3 mesi, puoi fare solo dei tagli lineari che mi sembra che non abbiano funzionato molto, vai a penalizzare i virtuosi e dai un beneficio ai viziosi, a chi continua a mal gestire la cosa pubblica. L'alternativa potrebbe essere che cosa? Secondo me per la prima volta dovremmo provare a fare un'operazione un po' più coraggiosa, e cioè invece di approvare una nuova manovra che anche, lo dicevi te poc'anzi, pur essendo concentrata sui tagli alla spesa presunti o virtuali, comunque sarebbe depressiva, perché anche i tagli alla spesa sono depressivi, non solo l'aumento della pressione fiscale. Allora bisognerebbe cercare, secondo me, di agire su vari tavoli. Allora, il primo, secondo me, è puntare con decisione sull'effetto che questo governo positivo avrà sui mercati, e lo già si è visto che c'è una buona risposta per quanto riguarda lo spread, e dunque ipotizzare da qui a fine anno un risparmio sul fronte degli interessi. Questo è il primo punto. Il secondo deve passare, e il Presidente Letta lo ha già in qualche modo anticipato attraverso il suo tour europeo che comincerà domani pomeriggio alle 5:30 a Berlino, con una visita lampo alla cancelliera Merkel, provare a sondare il terreno per cercare di spuntare un percorso più morbido di rientro dal deficit. Questo non vuol dire che noi dovremo fare nuova spesa in deficit, sia chiaro, perché sennò sconteremo gli effetti immediatamente, cioè quello che potremmo spendere lo dovremo ripagare sui mercati, che ci penalizzerebbero al momento in cui avrebbero la percezione che da noi si sono aperti i cordoni della borsa. Potrebbe però essere molto utile avere un anno in più per rientrare al di sotto del 3%, perché noi quest'anno saremo attorno al 2,9, e quindi poter avere un margine aggiuntivo di manovra per non fare una manovra depressiva. A questi due elementi si dovrà accompagnare una azione immediata sulla crescita, perché è tutto evidente che noi, quando ragioniamo di deficit, non possiamo non tener conto che la strada maestra per non fare debito è fare crescita, e dunque poi cercare di sanare quel che manca attraverso un mini taglio alla spesa. Questo forse si può fare, cercando di individuare quei 2-3 miliardi di tagli alla spesa corrente che, poiché si fanno a metà anno, poi devono valere il doppio in ragione d'anno, e allora unire un mix di misure di questo tipo per evitare che poi alla fine, per tagliare l'IMU o non far aumentare l'IVA, si faccia una manovra che ci fa andare il PIL sotto zero ancora di più di quanto non andrà quest'anno. Questo è un po' il senso del ragionamento. Allora, andiamo con ordine, perché va detto che Brunetta in alcune interviste ha chiarito dove intenderebbe prendere i 4 miliardi più 4, perché se vuoi rimborsare l'IMU dell'anno scorso sono 4 più 4 per la prima casa, E dice le coperture sono nel lotto, nei giochi, nelle accise, tabacchi per la parte strutturale, e l'accordo sull'evasione con la Svizzera anticipato dalla Cassa Depositi e Prestiti per la parte e prestiti per la parte one off. Queste sono le, lo dico per correttezza di informazione, le ipotesi che ha avanzato Renato Brunetta, che sappiamo è dietro politicamente a questa richiesta anche sull'IMU. Tu mi sembra che indichi invece un percorso anche diverso, cioè per carità tutto si può fare, l'accisa sui le tasse sui tabacchi, l'accordo con la Svizzera, però a livello strutturale è anche dire all'Europa: guardate, noi teniamo il deficit sotto controllo e quindi andiamo anche a tagliare qualcosa, non andiamo, però dateci un anno, due più di tempo. Io devo dire, sarà che ci capisco poco, però avendolo fatto la Spagna, avendolo fatto la Francia, non si capisce perché non possa farlo anche l'Italia, così in maniera un po' grossiera, un po' grezza. Vedo altri, vabbè, lotta alla corruzione, nuovo piano per la giustizia, e sull'IVA c'è un altro passaggio importante, perché Enricoletta vorrebbe eliminare anche l'aumento dell'IVA che altrimenti scatterà a luglio, e c'è questo passaggio sulla necessità di evitare un inasprimento dell'IVA. Misure ulteriori dovrebbero essere il pagamento di parte dei debiti delle amministrazioni pubbliche, l'allentamento del patto di stabilità interno, la rinuncia all'inasprimento dell'IVA, l'aumento delle dotazioni del Fondo Centrale di Garanzie per le piccole e medie imprese e del Fondo di Solidarietà per i mutui. Ma questi provvedimenti, sebbene necessari, non sono sufficienti. La crescita economica di un paese richiede una strategia complessa che eviti dispersione a pioggia delle poche risorse e che possa innescare meccanismi virtuosi. Per questo è necessaria una sintonia tra le azioni del governo, quelle delle banche e delle imprese, che debbono essere mirate a una crescita di lungo periodo degli attori economici, per superare gli annosi ritardi dell'Italia in termini di crescita della produttività e della competitività. Il governo deve accompagnare questa crescita e rimanere a fianco delle imprese anche e soprattutto quando queste si impegnano all'estero nell'arena globale. E poi dicevamo, ridurre il costo del lavoro, non bastano gli incentivi monetari, ridurre le tasse sul lavoro stabile e neoassunti è un suicidio dell'economia, non investire sui giovani. Lotta all'evasione, ma Equitalia non deve spaventare, non deve far venire i brividi alla gente. E poi chiuderemo sulla parte relativa alla politica. Vorrei da te però una previsione. Letta ha anche detto 18 mesi, fra 18 mesi verificherò se le riforme, e mi si riferiva soprattutto alla legge elettorale e alle Camere, al numero di parlamentari, saranno state fatte oppure trarrò le mie conseguenze. Ha detto che vanno abolite definitivamente le province. E che il voto di febbraio è stato il suo impegno, che è stato l'ultimo con il Porcellum. Quali ostacoli potrebbe incontrare in un minuto, Dino? Beh, gli ostacoli sono ovviamente, cioè, sono più europei o di coalizione, mettiamola così. Beh, l'uno e l'altro, bisogna vedere appunto se questa coalizione reggerà, soprattutto alla prova delle misure economiche che verranno varate nelle prossime settimane, perché non è assolutamente indifferente la scelta di dove andare a operare per finanziare tutte queste spese o mancati aumenti di imposizione fiscale, che comunque richiederanno risorse per almeno 11, 12, se non 15 miliardi. Allora è del tutto evidente che tutto questo insieme non si può fare in una botta sola. Occorrerà nell'immediato far fronte alle emergenze, gli esodati, la cassa integrazione in deroga, i precari della pubblica amministrazione, e cercare di evitare l'aumento dell'IVA. Dopodiché si può immaginare un percorso di riduzione stabile della pressione fiscale, considerato che la via maestra resta sempre quella del recupero di evasione e lotta alla corruzione. Quindi forse gradualmente si potrà fare. Nell'immediato quello che bisogna evitare assolutamente è una nuova manovra depressiva. Ah, sì. Se no ci avvitiamo di nuovo e non ne usciamo. Cioè, se tu metti una manovra correttiva, più l'IMU, più l'IVA, vabbè, a questo punto abbiamo scherzato a luglio. Ne ringraziare Dino Pesole, tanto ci risentiremo, perché questi sono discorsi programmatici. Sì, certo. Vorrei chiudere con un invito. Ha detto infatti Neo Premier: per ridare credibilità alla politica bisogna ricominciare con la decenza, la sobrietà, lo scrupolo e le banalità della gestione del padre di famiglia. ognuno deve fare la sua parte. Questo fin dal primo atto, fin dall'inizio, il primo atto del governo sarà eliminare lo stipendio dei ministri parlamentari, che esiste da sempre in aggiunta alla loro indennità. E poi ha chiesto di abolire il finanziamento pubblico ai partiti. Io, nel ringraziare chi è in ascolto e dare appuntamento a domani, chiuderei con questa dichiarazione di Enrico Letta, perché avendo noi una rubrica, purtroppo un appuntamento fisso sugli sprechi della pubblica amministrazione, cioè, che derivano anche da alcune forme di finanziamento o di rimborsi ai partiti, questo vorrei che fosse l'augurio di questa giornata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. La riduzione dei costi della politica diventa un dovere di credibilità. Pensate ai rimborsi elettorali. Tutte le leggi introdotte dal 1994 ad oggi sono state ipocrite e fallimentari. Non rimborsi, ma finanziamento mascherato. Per di più, di ammontare decisamente troppo elevato, come la Corte dei Conti ha recentemente confermato. 2,5 miliardi di euro dal 1994 al 2012, a fronte di spese certificate di circa 0,5 miliardi. È questa solo una delle conferme del fatto che il sistema va rivoluzionato. Partiamo dunque dal finanziamento pubblico ai partiti, abolendo la legge approvata e introducendo misure di controllo e di sanzione anche sui gruppi parlamentari e regionali. Radio 24. La passione si sente.